Ad alta voce, Elio De Capitani legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Amaranta Ursula continuò ad andare occasionalmente nella stanza quando aveva qualcosa da fare da quelle parti e restava lì pochi minuti mentre suo marito continuava a scrutare il cielo. Illuso da questo cambiamento, Aureliano rimaneva allora a mangiare in famiglia, come non faceva fin dai primi mesi del ritorno di Amaranta Ursula. A Gaston fece piacere. Nelle conversazioni di fine pasto, che di solito si prolungavano per più di un'ora, si lamentava che i suoi soci lo stessero ingannando. Gli avevano annunciato l'imbarco dell'aeroplano su una nave che non arrivava, e benché i suoi agenti marittimi insistessero che non sarebbe mai arrivata perché non figurava negli elenchi delle navi dei Caraibi, i suoi soci si ostinavano a riconfermare che la spedizione era regolare e insinuavano persino che Gaston mentisse nelle sue lettere. La corrispondenza raggiunse un così alto livello di diffidenza reciproca che Gaston decise di non scrivere più e cominciò ad avanzare la possibilità di un rapido viaggio a Bruxelles per mettere le cose in chiaro e tornare con l'aeroplano. Tuttavia il progetto andò in fumo non appena Amaranta Ursula reiterò la sua decisione di non muoversi da Macondo anche se fosse rimasta senza marito. Nei primi tempi Aureliano compartì l'opinione generalizzata che Gaston fosse un baggiano in velocipede e ciò gli suscitò un vago senso di pietà. Più tardi, quando ottenne nei bordelli una nozione più profonda sulla natura degli uomini, pensò che la mansuetudine di Gaston aveva origine nella passione scatenata. Ma quando lo conobbe meglio e si rese conto che il suo vero carattere era in contraddizione con il suo modo d'agire sottomesso, concepì il malizioso sospetto che persino l'attesa dell'aeroplano fosse una farsa. Allora pensò che Gaston non era così baggiano come dava intendere, ma al contrario, un uomo dotato di una costanza, di un'abilità, di una pazienza infinite, che si era proposto di vincere la moglie con la stanchezza dell'eterna compiacenza, del mai dirle di no, del simulare una concordia senza limiti, lasciando che si avviluppasse nella sua stessa ragnatela fino al giorno in cui non avesse più sopportato il tedio delle illusioni a portata di mano e lei stessa avrebbe fatto le valigie per tornare in Europa. La primitiva pietà di Aureliano si trasformò in un'anima avversione virulenta. Gli sembrò così perverso il sistema di Gaston, ma nello stesso tempo così efficace, che ebbe l'ardire di mettere in guardia Amaranta Ursula. Lei si fece beffe dei suoi sospetti, senza intravedere tuttavia la lacerante carica di amore, di incertezza e di gelosia che vi era contenuta. Non le venne in mente di aver suscitato in Aureliano qualcosa di più di un affetto fraterno, finché si tagliò un dito mentre cercava di aprire una scatola di pesca e lui si affrettò a succhiarle il sangue con un'avidità e una devozione che le fecero accapponare la pelle. Aureliano si mise a ridere inquieta. Sei troppo malizioso per essere un buon vampiro. Allora Aureliano non si frenò più, dandole bacetti orfani nel cavo della mano ferita, aprì gli anditi più occulti del suo cuore e ne tolse un viscere interminabile macerato, il terribile animale parassitario che aveva incubato nel martirio. Le svelò che si alzava a mezzanotte per piangere di desolazione e di rabbia negli indumenti intimi che lei lasciava ad asciugare nel bagno. Le raccontò con quanta ansia pregava Nigromanta di strillare come una gatta e di singhiozzargli nell'orecchio Gaston, Gaston, Gaston, e con quanta astuzia saccheggiava le sue boccette di profumo per ritrovarlo nel collo delle ragazzine che facevano all'amore per fame. Spaventata per la passione di quello sfogo, Amaranta Ursula chiuse a poco le dita, contraendole come un mollusco, finché la sua mano ferita, libera da ogni dolore e da ogni vestigio di misericordia, si trasformò in un groppo di smeraldi e topazi e ossa petrose e insensibili. Bruto, scattò come se stesse sputando. Me ne torno in Belgio con la prima nave che partirà. Alvaro era arrivato in una di quelle sere nella libreria del Savio Catalano annunziando con voce stentorea la sua ultima scoperta, un bordello zoologico. Si chiamava El Niño de Oro ed era un immenso salone all'aria aperta dove gironzolavano a loro piacere non meno di 200 aironi che marcavano l'ora con un crocidio assordante. Nei recinti di filo di ferro che circondavano la pista da ballo e tra grandi camelie amazzoniche c'erano garze colorate, caimani grossi come maiali, serpenti con 12 sonagli e una tartaruga dal guscio dorato che si tuffava in un minuscolo oceano artificiale. C'era un cagnaccio bianco mansueto e pederasta che però prestava anche servizi di stallone purché gli dessero da mangiare. L'aria aveva una densità ingenua, come se l'avessero appena inventata, e le belle mulatte, che aspettavano senza speranza tra petali sanguinosi e dischi passati di moda, conoscevano artifici d'amore che l'uomo aveva lasciato in dimenticanza nel paradiso terrestre. La prima notte in cui il gruppo andò a visitare quel semenzaio di illusioni, la splendida e taciturna vecchia che sorvegliava l'ingresso in una poltrona di giunco sentì che il tempo ritornava alle sue sorgenti primitive, quando tra i cinque che arrivavano scoprì un uomo ossuto, citrigno, con zigomi tartari, marcato per sempre dal principio del mondo, dal buttero della solitudine. «Ai», sospirò, «Aureliano». Stava rivedendo il colonnello Aureliano Buendía, come lo aveva visto alla luce di una lampada molto prima delle guerre, molto prima della desolazione, della gloria, dell'esilio, del disinganno, quel remoto mattino in cui era andato nella sua stanza per impartire il primo ordine della sua vita, l'ordine che gli dessero l'amore. Era Pilar Ternera. Anni prima, dopo aver compiuto i 145, aveva rinunciato alla perniciosa abitudine di fare il calcolo della proprietà e continuava a vivere nel tempo statico e marginale dei ricordi, in un futuro perfettamente rivelato e stabilito, al di là dei futuri turbati dalle imboscate e dalle supposizioni insidiose delle carte. Da quella notte Aureliano si era rifugiato nell'affetto e nella comprensione compassionevole della trisnonna ignorata. Seduta nella poltrona di giunco, lei evocava il passato. Ricostruiva la grandezza e la decadenza della famiglia e lo scomparso splendore di Macondo, mentre Alvaro spaventava i caimani con le sue risate strepitose e Alfonso inventava la storia truculenta degli aironi che avevano sbuzzato gli occhi a furia di beccate a quattro clienti che si erano comportati male la settimana prima, e Gabrielle era nella stanza di una mulatta pensierosa che non barattava l'amore con danaro, ma con lettere per un fidanzato contrabbandiere che era in prigione dall'altra parte dell'Orinoco perché le guardie di frontiera lo avevano purgato e poi lo avevano fatto sedere su un pitale che si era riempito di merda con diamanti. Quel bordello vero, con quella padrona materna, era il mondo che Aureliano aveva sognato nella sua prolungata clausura. Si sentiva così bene, così prossimo al sodalizio perfetto, che non pensò ad altro rifugio il pomeriggio in cui Amaranta Ursula gli polverizzò le illusioni. Andò, disposto a sfogarsi con parole, cercando qualcuno che gli sbrogliasse i nodi che gli opprimevano il petto, ma riuscì soltanto a sciogliersi in un pianto fluido e caldo e riparatore nel grembo di Pilar Ternera. Lei lo lasciò finire grattandogli la testa con i polpastrelli delle dita e senza che lui le avesse rivelato che stava piangendo d'amore, lei riconobbe immediatamente il pianto più antico della storia dell'uomo. «Bene, marmocchio», lo consolò. Ora dimmi chi è. Quando Aureliano glielo disse, Pilar Ternera emise una risata profonda, l'antica risata espansiva che aveva finito per sembrare un grugare di colomba. Non c'erano misteri nel cuore di un Buendía che le fossero impenetrabili, perché un secolo di cartomanzia e di esperienza le aveva insegnato che la storia della famiglia era un ingranaggio di ripetizioni irreparabili, una ruota giratoria che avrebbe continuato a ronzare fino all'eternità se non fosse stato per il logorio progressivo e irrimediabile dell'asse. «Non preoccuparti», sorrise. «In qualsiasi luogo si trovi ora, lei ti sta aspettando». Amaranta Ursula uscì dal bagno alle 4:30 del pomeriggio. Aureliano la vide passare davanti alla sua stanza con una vestaglia a pieghe tenui e un asciugamano arrotolato in giro alla testa come turbante. La seguì quasi in punta di piedi, barcollando per la sbornia, ed entrò nella stanza nuziale nel momento in cui lei apriva la vestaglia e tornava a chiuderla spaventata. Fece un cenno silenzioso verso la stanza attigua che aveva la porta socchiusa e dove Aureliano sapeva che Gastone era in procinto di scrivere una lettera. «Vattene», disse senza voce. Aureliano sorrise, la sollevò per la vita con le due mani come un vaso di begonie e la gettò supina sul letto. Con uno strattone brutale la spogliò della tunica da bagno prima che lei avesse tempo di impedirglielo e si sporse sull'abisso di una nudità appena lavata che non aveva né una sfumatura della pelle né una venatura di peli né un neo recondito che lui non avesse già immaginato nelle tenebre di altre stanze. Ursula si difendeva sinceramente, con astuzia di femmina saggia, donnolando il suo scivoloso e flessibile e fragrante corpo di donnola mentre tentava di massacrargli le reni con le ginocchia e gli scorpionava la faccia con le unghie, ma senza che né lui né lei emettessero un sospiro che non potesse confondersi con la respirazione di qualcuno che fosse in contemplazione del parsimonioso crepuscolo di aprile dalla finestra aperta. Era una lotta feroce, una battaglia a morte, che tuttavia sembrava sprovvista di qualsiasi violenza perché fatta di aggressioni distorte, di illusioni spettrali, lente, prudenti, solenni, di modo che tra l'una e l'altra c'era il tempo perché tornassero a fiorire le petunie e che Gaston dimenticasse i suoi sogni di aeronauta nella stanza vicino come se fossero due amanti nemici in cerca della riconciliazione nel fondo di un acquario diafano. Nell'affanno accanito e cerimonioso del divincolio, Amaranta Ursula comprese che la meticolosità del suo silenzio era così irrazionale che avrebbe potuto destare i sospetti del marito attiguo, assai più degli strepiti di guerra che cercavano di evitare. Allora cominciò a ridere, con le labbra strette, senza rinunciare alla lotta, ma difendendosi con morsi falsi e sdonolando il suo corpo a poco finché tutti e due si accorsero di essere al tempo stesso avversari e complici. E la zuffa degenerò in un ruzzo convenzionale e le aggressioni si trasformarono in carezze. Improvvisamente, come per gioco, come per un'altra monelleria, Amaranta Ursula trascurò la difesa e quando cercò di reagire spaventata di ciò che ella stessa aveva reso possibile. Era ormai troppo tardi. Una commozione immane la immobilizzò nel suo centro di gravità, la seminò nel suo luogo e la sua volontà difensiva fu demolita dall'ansia irresistibile di scoprire cosa erano i sibili aranciati e i globi invisibili che l'aspettavano dall'altra parte della morte. Ebbe appena il tempo di allungare la mano e cercare a tentoni l'asciugamano e mettersi una mordacchia tra i denti per non far uscire gli strilli di gatta che già le stavano straziando le viscere. Este viento en mi cara, ojalá no deje nunca de encontrar tesoros cotidianos. Esta vida siempre me asombra.